XX, cosa? XXX, nuovo progetto di vino e che lievina. Un pezzo nuovo a settimana senza una trama. Finché dura, finché dura, finché dura, finché dura, finché dura si fa. Finché dura si fa, finché dura si fa. Vino e che lievina, XXX. Tira sulle mani ora XXX. Ma che cazzo è stavana? Sono vino e che yei, chi sei? Lo facessi per i soldi, non mi sputtanerei. Ho la mente rilassata, sto rap è una figata. La mia non ha una lotta armata. Ho una rima baciata dalla fortuna. E faccio XXX finché dura. Tengo il microfono acceso al pomeriggio. Bella raga, adesso fuori il tempo è grigio. Non c'è il sole, eppure siamo a maggio. Teniamo coraggio, facciamoci un altro viaggio. XXX, raga, ne vuoi un assaggio? Sono preso come sono, sono preso come ostaggio. 1, 2, 3, rappresenta qua ce n'è. Sono vino e che io è binè. Tu chi sei? Capo camera anche senza binè.